Tu la sai la verità? Hai un'idea? Sì, che la sai. No, non ti voglio... Allora... Sì? Cioè, sai chi è la talpa? Lo sanno un po' tutti, dai, io penso che lo sanno un po' tutti. In effetti, dai, fate una bella figura da cioccolatino, come si suol dire dalle mie parti. Però ormai è andata, la prendiamo con filosofia. Senti, ma ti credo che qualche giocatore minimo abbia qualche problemino di corsa. Il limite di velocità non corriamo il rischio di prenderlo. No. Tutti convocati di Giovanni Capuano. 13. Mi dispiace. È successo di nuovo. Parte Leonardo Bonucci. E calcia alto. L'errore di Bonucci. Siamo nelle mani di Gigi Buffon. Sempre la stessa storia per me, sempre la stessa vita per me. La delusione c'è perché ci tenevamo ad arrivare fino in fondo, andarci a giocare la finale a Rio contro il Brasile. Però i rigori sono una lotteria, sono sentito di aprirlo, di tirarlo lì, però l'ho alzata troppo, però credo che da qui dobbiamo ripartire. Si è vista una grande Italia, ha messo sotto i campioni del mondo e con un po' più di fortuna l'avremmo portata a casa sicuramente nei primi 90 minuti. Sempre la stessa storia per me. È successo di nuovo, sempre la stessa storia, come il 21 giugno del 2008, ancora i rigori, ancora contro la Spagna. Questa volta però le lacrime ce le asciughiamo in fretta, perché la nazionale eliminata dalla Confederations è piaciuta davvero tanto. Nel momento peggiore si è ritrovata, ci dobbiamo accontentare della finalina di consolazione contro l'Uruguay. Il Maracanã lo rivedremo, si spera, l'anno prossimo. Però i 120 minuti di ieri sera hanno restituito un senso alla nostra spedizione in terra di Brasile. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349-238-6666 per gli sms, chiocciola tutti convocati su Twitter. Questi sono i contatti per dirci in diretta che cosa ne pensate di Italia-Spagna, del rigore di Bonucci. Poi parleremo anche della trattativa che porterà l'Inter al magnate indonesiano Tohir. Intanto però partiamo dalla nazionale. Allora, per capire che cosa lascia in eredità la semifinale di ieri sera contro la Spagna, abbiamo convocato due firme d'eccezione. Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo, buon pomeriggio direttore. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. E Fabrizio Bocca di Repubblica, ciao Fabrizio, buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti. Fabrizio Bocca che oggi scrive, commentando la partita di ieri sera: la nostra nazionale era arrivata in Brasile infiacchita dal campionato, soprattutto senza un'idea precisa di se stessa e un po' confusa. La Spagna ne ha frustato l'orgoglio. Ho l'impressione che forse da ieri sera abbiamo ritrovato, Prandelli ha ritrovato un po' il filo che aveva smarrito, il filo che ci deve portare fino al mondiale dell'anno prossimo. Fabrizio. Ma sì, direi che l'Italia che si è vista alla Confederations Cup quest'anno è stata un'Italia insomma un po' strana, ecco, che si è sempre mossa, che si è messo il sale sulla coda soltanto quando le cose non si mettevano bene. Mi riferisco un po', ecco, alla partita quella col Giappone, ma anche alla partita con il Brasile, e ha un po' troppo tergiversato tra schemi, moduli, insomma senza avere una filosofia precisa, anche un po' ripiegandosi un po' su se stessa con quella decisione di Prandelli, ecco, di giocare a una punta sola, puntando veramente tutto su Balotelli. Poi nel momento in cui è mancato Balotelli è veramente venuta un po' l'emergenza. Però insomma, ecco, con l'orgoglio, diciamo così, con l'orgoglio e con il carattere, l'Italia ha superato, ecco, un po' questi problemi. Che, certo, che voto dai all'Italia di ieri sera, Fabrizio? Ma l'Italia di ieri sera, sai, è stata un'Italia senz'altro da 6.5-7, assolutamente sì, aveva davanti un grande avversario che non è riuscita a farle gol, insomma, era un'Italia molto malmessa in difesa, che ne aveva presi 8 nelle precedenti tre partite, 10 addirittura se ci mettiamo dentro anche la partita con Haiti. Quella di ieri sera è stata sicuramente una, una buona Italia, poi è andata fuori per il rigore, insomma, di 14 rigori, poi, prima o poi sì, uno lo deve sbagliare, a noi capita spesso. Ma mai come questa volta, però, il risultato conta poco. Matteo Marani, il voto all'Italia di ieri sera? No, do un 7 convinto, soprattutto per quello che ha fatto vedere nel primo tempo, un po' è calato, un po' scese, la Spagna un po' risalita. Però è stato oggettivamente il primo tempo molto molto bello di un'Italia che finalmente, mi viene a dire, al quarto tentativo ha trovato se stessa. Io credo anche che sia stata molto pungolata dalla Spagna, cioè il fatto di dover affrontare i più forti, la paura, la preoccupazione della grande squadra ha portato quel pizzico di realismo che forse era mancato, diciamo anche di lucidità nelle scelte, che ha poi spinto a prendere schiera la squadra intanto con la difesa 3. Io onestamente lo dicevo da un po' di giorni, cioè non capivo per quale ragione la miglior difesa d'Italia, che è quella della Juve, che gioca 3, si doveva snaturare in nazionale diventando con due centrali, i quali erano in evidente imbarazzo, anche perché poi i terzini, insomma i laterali bassi, non avevano doti difensive, quindi c'era questa difficoltà a trovare le misure da parte dei difensori, che improvvisamente tornando a 3 invece le hanno ritrovate. E questo centrocampo molto molto attento, molto accorto e pronto a ripartire, direi che la chiave insomma è stata in questo atteggiamento. Spero che da qui in avanti, quindi la sperimentazione, cioè il fatto di cambiare continuamente modulo, si attenui e si vada verso quella che dovrà poi essere la squadra del mondiale. Sì, ho l'impressione, e lo chiedo a tutti e due, è che anche questa partita con la Spagna, ma un po' tutto lo svolgimento di questa Confederation, segnino la fine dell'idea del 4-3-3, che era un po' il progetto tattico che Prandelli aveva disegnato in vista del mondiale dell'anno prossimo, un po' perché mancano i giocatori, direttore, un po' forse anche perché Prandelli si è reso conto che anche l'anno prossimo a fine stagione arriveremo in condizioni fisiche non sufficienti per supportarlo. Marani e poi Bocca. No, però voglio dire che il 4-3-3 di fatto non l'abbiamo visto in Confederazione. Abbiamo visto prima il rombo, una specie di rombo, poi abbiamo visto l'albero di Natale, poi abbiamo visto il 4-2-3-1, cioè i giocatori di cui molto si era parlato, cito per Terci, che doveva essere un po', come dire, un punto nuovo della nazionale, è andato un po' scomparendo, come devo dire dall'altra parte è andato anche scomparendo il Sharawi, anche questo sarebbe un tema magari. E poi ne parliamo, perché ce lo chiedono anche da casa, il mistero del Sharawi, ma ne parliamo dopo il traffico, avanti. Volevo dire... Prego. No, dire soltanto appunto che in questo momento mi sembra che la fisionomia sia più definita quella d'Italia e che parto ovviamente da... Sì, c'è qualche problema di collegamento con Matteo Marani, adesso lo recuperiamo. Fabrizio Bocca, è la fine dell'idea del 4-3-3? No, io credo proprio di no. Prandelli credo sia molto votato verso quello schema e il tipo di gioco che vuol fare e la soluzione della difesa a 3 o a 5, insomma, diciamo così, del modello Juve lo ha sempre adottato abbastanza in emergenza. Capito lo stesso un anno fa, prima dell'inizio degli europei, aveva bisogno di compattare un po' la squadra e lui giustamente adottò il modello della Juventus, e lo stesso è ricapitato quest'anno, ma penso che lui voglia un tipo d'Italia diverso, diciamo così, molto insomma più offensivo, con più attaccanti, con un centrocampo bello folto, però insomma fino adesso non è sempre riuscito ad attuarlo, soprattutto in quest'anno post mondiale, dove la nazionale insomma non è che abbia fatto delle grandi partite, se non appunto questa con la Spagna, diciamo così, qualche prestazione qui, qualche mezze prestazioni qui alla Confederations Cup. Io credo che ancora abbia in testa quell'idea, poi vediamo. Sì, tu oggi scrivi, oggi arriva sempre alle grandi manifestazioni, in emergenza deve un po' rifare, ecco. Oggi tu ricordi su Repubblica, dopo la semifinale dell'Europeo con la Germania, l'Italia non ha più battuto una grande nazionale, fino a ieri sera non aveva nemmeno giocato alla pari, se non per frazioni di partita, contro una grande nazionale. Ieri sera contro la Spagna l'ha fatto. Tutti convocati. Ma sì, una parola di incoraggiamento, però sai, non esistono parole in questo momento per consolarti. A freddo poi insomma avrà modo di riprendersi, i rigori li sbaglia solo chi li tira. E Leo ha la personalità per tirare il rigore, sarò sfortunato. Sì, dopo poco sarebbe toccata a me, ma non era un problema. Io sono juventino, ma se Prandelli vuole giocare coi difensori della Juventus, che non sono eccezionali, il modulo a tre contro le grandi squadre è un dovere, scrive Federico da Alessandria. E poi, secondo me, con i cambi di Diamanti al posto di Marchisio e del Sharawi al posto di Gilardino avremmo avuto più impatto sulla partita. Un altro amico al 349-238-6666. In tanti stanno chiedendo di El Sharawi, che penso Matteo Marani, che abbiamo recuperato da ieri sera, in realtà sia diventato un problema anche per questa nazionale. D'accordo la difficoltà di coesistenza con Balotelli, ma a questo punto è finito in fondo alla lista degli attaccanti di Prandelli? Sì, sì, nettamente. Insomma, partiva da titolare, di fatto è scalato dietro Gilardino, è scalato dietro a Giovinco, e appunto, come dicevi tu, anche in assenza di Balotelli, che sembrava essere la causa dei suoi problemi, non l'abbiamo comunque visto. Io non so sinceramente che cosa stia succedendo al giocatore, anche perché parliamo comunque di un giocatore che negli ultimi mesi ha avuto parecchi problemi anche nel Milan. Può essere che sia una ragione psicologica, probabilmente non è nel migliore delle condizioni, però vorrei capire in effetti che cosa ha questo ragazzo, perché parliamo di quello che è il talento più importante del nostro calcio. Lo ricordo che ha solo 20 anni, che doveva essere il futuro del nostro movimento, questo dicevamo tutti fino a novembre-dicembre, e che d'improvviso è scomparso, e là dal punto che addirittura il Milan ragione pensa di poterlo cedere in questo mercato. Non so, vorrei capirlo, e cercheremo insomma di capire che cosa sta succedendo. Sì, c'è qualcosa che sinceramente sfugge nella parabola di El Sharawi. Fabrizio Bocca, è un paradosso che l'Italia migliore si sia vista senza Balotelli, che di quest'Italia è la copertina. Prandelli non ha usato le parole usate da Gagliani, che lo ha definito incedibilissimo, la stella del Milan, però poi nelle scelte par di capire che il pensiero è identico a quello che in questi giorni, in queste settimane, stanno facendo i vertici del Milan. Eppure, fuori Balotelli, l'Italia ha giocato bene, ha giocato meglio. Aveva detto Prandelli alla vigilia: guadagneremo molto in qualità del gioco. Avevamo sorriso un po' tutti, anch'io lo ammetto, pensando fossero parole di circostanza, e invece si è vista una bella Italia. Beh, sai, può capitare, insomma, è un po' come quando certe squadre moltiplicano gli sforzi dopo l'espulsione di un giocatore, no? Rimangono in 10, però addirittura riescono a giocare meglio proprio perché tirano fuori veramente, veramente tutto. Io avevo immaginato che contro la Spagna l'Italia non avrebbe più fatto la partita che fece un anno fa, proprio perché avrebbe moltiplicato veramente gli sforzi, l'attenzione, un po' tutto quanto. Secondo me il fatto che abbia giocato meglio senza Balotelli insomma, sinceramente mi sembra abbastanza casuale. Se l'avesse avuto in campo, allora se dobbiamo ragionare di sedi, ma se l'avesse avuto in campo, forse uno di quei tanti tiri che sono stati fatti verso la porta nel primo tempo, magari uno l'avrebbe messo sì, dentro. Ci fosse stato lui al posto di Gilardino. Non è che Gilardino poi abbia fatto questa gran partita, insomma, ha fatto una buona partita, ma insomma. Lo sciagurato Gilardino, con rispetto parlando, anche se poi le occasioni migliori sono capitate a Maggio e Marchisio, e Gilardino c'entrava poco, però evidentemente era forse in una partita troppo grande per lui. Gilardino, che pure ha esperienza internazionale, ha già fatto il mondiale, ha già una sua storia anche con la maglia azzurra, però credo tra un anno insieme a Balotelli dovrà esserci qualcuno di un po' più solido. In tanti scrivono al 349-238-6666, ci fosse stato Osvaldo, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, probabilmente tra un anno Osvaldo sarebbe perdonato per il tweet contro Andrea Zoli, non lasciato a casa, e credo che Prandelli farà tesoro anche dell'esperienza di questa Confederations. Per chiudere un flash, Matteo Marani, Fabrizio Bocca, il voto alla spedizione brasiliana dell'Italia, Matteo. Ma è un voto che diventa sufficiente grazie all'ultima partita. Se posso aggiungere una considerazione, sì, secondo me è importante. Io colgo in giro che spesso c'è un pregiudizio nei confronti della difesa 3, cioè c'è quasi un sinonimo che la difesa 3 non sia spettacolare. Ricordo che nel campionato italiano appena concluso, la squadra che ha segnato più reti è il Napoli, che gioca con la difesa 3. Una delle più performanti, una di quelle che ha fatto più reti, è la Juventus, altra squadra che gioca con la difesa 3. Non è una questione di moduli il calcio, è una questione di equilibri. In questo caso qui, secondo me, nazionale, la dimostrazione credo che sia Maggio, col modulo 3 riesce a portare avanti un laterale che altrimenti rimane bloccato dentro e non diventa uno degli attaccanti più pericolosi come è stato ieri. Io sono, diciamo, moderatamente ottimista dopo aver visto l'Italia di ieri. Spero che si continui su questa strada qui e che si cancelli l'errore delle prime partite in cui onestamente l'Italia ha fatto poco. male, dovevamo perdere la partita col Giappone, siamo andati male nelle altre, insomma, quindi male fino a ieri e bene. Quindi una sufficienza grazie soprattutto a questa partita. Grazie a Matteo Marani. Fabrizio Bocca, il voto a questa spedizione? Ma anch'io sono d'accordo, direi un 6 meno, diciamo che all'Italia è mancata l'impresa. Ha fatto dei buoni pezzi di partita, ma l'impresa veramente non l'ha fatta. Col Brasile, insomma, ha fatto dei pezzi di partita, con la Spagna ha fatto comunque una buonissima partita, ma non un'ottima partita, perché non è riuscita a segnare. Probabilmente, insomma, diciamo così, il voto sarà definitivo con la partita con l'Uruguay. Anche se ho l'impressione ci sarà molto turnover, perché ieri sera in tanti hanno finito stremati. Grazie Matteo Marani, grazie a Fabrizio Bocca. Buona giornata, grazie a voi. Grazie a tutti e due. 800 24 00 24, adesso è il vostro momento per dirci che cosa ne pensate di Italia-Spagna. Cominciamo dalla provincia di Varese. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a prego tutti. E abbassi la radio. Sì, aspetta. Dica. No, io direi che sicuramente la sufficienza è stiracchiata, non per i ragazzi che hanno giocato, ma per l'impostazione. Ieri era chiaro che a un certo punto volevamo arrivare ai rigori, perché io non concepisco inserire Giovinco al posto di El-Shaarawy. Se El-Shaarawy è effettivamente, come si è dimostrato, un problema, non doveva andare in panchina, perché Prandelli deve spiegare perché porta un giocatore in panchina che ha già intenzione di non schierare. Ieri era chiaro che al 90esimo era l'intenzione di arrivare ai rigori, e questo è quello che non ci permette di essere ancora nel novero delle squadre che possono arrivare in fondo al mondiale. El-Shaarawy è il nostro futuro, non è Giovinco. Era il caso ieri sera, veramente, lui lo sa che ieri sarebbe stato il suo rilancio possibile, per me avrebbe dato il massimo, psicologicamente sarebbe stata una carta da giocare, e in quel momento della partita un giocatore che veramente faceva la differenza. Sì, ho l'impressione, Marco, però, che El-Shaarawy abbia dei problemi al di là di probabilmente è un momento non positivo a prescindere. Giustamente ricorda Andrea al 349 238 6666, ha chiuso anche il campionato con un ginocchio malandato, non l'aveva curato perché c'erano le esigenze del Milan. Evidentemente El-Shaarawy in questo momento non è in condizione di essere una risposta per la nazionale. Prandelli l'ha capito e spera che però tra un anno possa tornare a essere disponibile, così come nella prima metà della stagione. Romano dalla provincia di Biella, buon pomeriggio. No, intanto la provincia di Belluno. Sì, prego. Allora, due cose velocissime. Dica. Il primo, secondo me l'Italia ha giocato al 110%. Sì, e magari la Spagna un po' sotto. La Spagna al 60%. L'anno prossimo cosa pensiamo di fare o di portare per cambiare questo andamento? Ma io credo, Romano, che la Spagna ieri sera era una squadra affaticata rispetto all'Italia. Si sono un po' invertiti i ruoli rispetto a quello che è accaduto un anno fa nella finale di Kiev, dove noi avevamo avuto un giorno in meno di riposo alla fine di una manifestazione massacrante e l'avevamo pagata dal punto di vista fisico. A questa semifinale la Spagna è arrivata con un giorno di riposo in meno, probabilmente l'ha pagato. Credo anche che la Spagna quest'anno stia soffrendo un po' così, un po' come ha sofferto il Barcellona in tutta questa stagione. Mi sembra anche di vedere i primi segnali di cedimento in Xavi, che è un giocatore fondamentale per la Spagna così come per il Barcellona. Io penso che Prandelli fra un anno potrebbe avere in più, al di là di Osvaldo e dei suoi problemi di carattere disciplinare, potrebbe avere in più Giuseppe Rossi, che è una pedina importante della sua nazionale. Rientrerà all'inizio della stagione, a disposizione 6 mesi per convincere Prandelli di poter essere importante anche per questa nazionale. Riuscisse a convincerlo, credo potrebbe essere la spalla ideale per Balotelli. Francesco dalla provincia di Catanzaro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Niente, volevo intervenire sul discorso della nazionale, perché molti dicono tante cose, chi parla tecnicamente, chi parla della visione di stanchezza. Nei campionati del mondo vengono sempre dopo i campionati, sono sempre tutti stanchi, anche le altre squadre, anche la Spagna ha avuto paura ieri sera dall'Italia. Lo 0-0 non ha segnato neanche la Spagna, quindi non vedo perché bisogna illuminarci del possibile futuro. Pecchiamo un po' in attacco, ma la punta mancava ieri sera, la titolare, Balotelli, una forza, una torre, quindi non vedo altri Sì, insomma, non abbiamo da preoccuparci, Francesco. Secondo me qualcosina da preoccuparci abbiamo, più che altro abbiamo da essere consapevoli che c'è un lavoro che va rifinito, che è un progetto, che siamo a metà strada. E ad esempio, io torno a ripeterlo, tra un anno non potremo presentarci in Brasile senza un'adeguata alternativa a Balotelli, sia che Balotelli debba giocare punta unica come è stata in questa Confederations, sia che si torni a un modulo differente. È una cosa che dovremo avere, così come dovremo avere, io penso, anche un regista che possa dare fiato e minuti di riposo a Pirlo. Potrebbe essere Verratti, che è stato lasciato all'Under 21, oppure si attendono suggerimenti dal campionato. Tutti convocati. Mi chiedete informazioni su cosa sta accadendo ad Assen, MotoGP. Anche oggi è stata una giornata di caduta. La più grave ha interessato Marc Márquez, il talento spagnolo della Honda. Frattura al mignolo della mano destra e all'alluce del piede sinistro, ma gli è andata bene perché poteva anche andare peggio. La notizia però è che Jorge Lorenzo è stato operato nella notte alla clavicola sinistra, torna ad Assen e vuole correre. Il medico della MotoGP ha detto che è una follia e che nessuno si assumerà la responsabilità di rimandarlo in pista. Ancora qualche ora e sapremo come andrà a finire. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Piero da Cosenza, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Senta, io riguardo alla nazionale vorrei dire una cosa. Ma come mai Prandelli, dico, almeno per questa Confederation Cup, non ha puntato su Di Natale per l'attacco pure? Perché Di Natale, perché Di Natale, Piero, credo faccia parte di questo gruppo, il gruppo della nazionale, ma così come ad esempio vale per Totti, fa parte di questo gruppo se arriva alla vigilia del grande appuntamento in condizioni che rendano assolutamente inevitabile la sua convocazione, un po' come è avvenuto prima dell'Europeo dell'anno scorso e un po' come Prandelli ha lasciato intendere potrebbe avvenire per Totti fra 10 mesi. Prima di andare in Brasile. Lo stesso vale per Totò Di Natale. In questa Confederations il progetto era cucito sulle spalle di Balotelli e quindi Di Natale non sarebbe servito. Sentiamo Prandelli ieri dopo la partita. Quando arrivi ai rigori tutto può capitare. Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati sempre in gara dal primo minuto all'ultimo, abbiamo concesso, abbiamo creato molto. Abbiamo fatto una partita molto ma molto buona. La Spagna è davanti a noi perché ha comunque molti anni in cui hanno lavorato su questi concetti. Noi stiamo cercando la nostra strada, però dal punto di vista dello spirito, dal punto di vista carattere e anche dal punto di vista tattico stiamo migliorando. Tutte le partite le vorresti rigiocare, quelle che non vinci, però non in queste condizioni. Queste condizioni è assurdo, diventa veramente quasi impossibile pensare di avere ancora energie dopo tanti minuti. Questi ragazzi sono stati commoventi. Salvatore da Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. No, io volevo innanzitutto dire che ieri mattina tutti quanti avremmo filmato per vedere lo spettacolo che abbiamo visto poi ieri sera. Io per primo. Appunto. E poi niente, secondo me un sostituto di Balotelli non può essere Giovinco, ma io l'avrei portato tipo Pazzini. Una punta più incisiva sicuramente. Sì, Pazzini però, mi perdoni Salvatore, è fuori causa fino a poco prima di Natale per l'infortunio al ginocchio, e quindi in questo momento Pazzini non c'è. Certamente Pazzini è un giocatore che se dovesse ripetere la seconda metà di stagione, quella appena passata, anche da dicembre in poi, avrebbe una candidatura concreta per entrare nel gruppo dei 23 del Mondiale. Pazzini, Osvaldo e poi ripeto, attenzione a Pepito Rossi. In tutto questo credo che il vaso di coccio sia Gilardino, che ieri sera non ha convinto, non è piaciuto tantissimo. Non è colpa sua se l'Italia non ha segnato nei 120 minuti, anche nei momenti in cui ha avuto in mano il pallino della partita, però certamente in Italia è rimasto di meglio, almeno sulla carta. Cambiamo argomento. Oggi sui giornali le notizie dell'accordo oramai quasi definito per la cessione di una quota per il momento di minoranza dell'Inter da Moratti al magnate indonesiano Tohir. Poi in 2 o 3 anni si arriverà alla cessione della maggioranza. Forse noi abbiamo scelto per approfondire questo argomento Marco Belinazzo del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Marco. Ciao Giovanni. Ciao Marco, buon pomeriggio. Tu ce l'avevi anticipato qualche giorno fa che in realtà, malgrado il silenzio sotto la brace, covava la cenere della trattativa tra Tohir e Moratti. Oggi sui giornali, un po' ovunque, subito il 40% entro 3 anni la maggioranza. Io ho l'impressione che si stia andando anche oltre quelle che probabilmente in questo momento sono le cose. Certo è che siamo davvero alla vigilia di una svolta epocale. Io mercoledì scorso avevo poi con un tweet, visto che ormai tutto viaggia su Twitter, avevo appunto annunciato quell'incontro la prossima settimana, un incontro importante. Poco dopo Moratti, uscendo dal CDA dell'Inter, ha dato in pasto ai giornalisti una dichiarazione, diciamo, di un momento positivo della trattativa, che in realtà prelude a quello che è un accordo non raggiunto, e non mi spingerei fino al punto di dire che è raggiunto, ma che è veramente a portata di mano e che, come hai detto giustamente tu, prelude a una svolta epocale, perché al di là dell'investimento americano nella Roma, questo significa davvero invece avere una squadra come l'Inter dalla doppia proprietà, almeno per un periodo che potrà essere anche di più di 3 anni magari, o di meno, insomma questo poi verrà deciso, ma che comunque avrà, per quello che è suo stesso nome, una vocazione, una proprietà internazionale, avrà nel mercato asiatico un mercato molto importante per rilanciare il fatturato. Sì, la differenza rispetto alle scorse settimane è che Moratti si è convinto che la sua avventura all'Inter, e poi i tempi andranno visti, e anche le modalità, va considerata quasi conclusa. Qualche settimana fa sembrava irremovibile sul fatto di voler mantenere il controllo della società. Oggi par di capire c'è comunque un percorso che è disegnato. Moratti è riuscito a convincere Tohir che acquisire direttamente il pacchetto di maggioranza, se non l'intero pacchetto, poteva essere un errore nell'ottica in cui il calcio italiano e il sistema economico italiano sono due ambienti molto difficili, e quindi lo ha convinto che una partnership, una cogestione per qualche anno in cui lui mantiene la presidenza dell'Inter, forse è la soluzione migliore per garantire un collocamento della società all'interno, diciamo, del panorama italiano, internazionale, più solido, ecco, con agganci migliori, e questo permetterà quindi a Tohir di fare esperienza del calcio, ripeto, dell'economia, della società italiana, della politica italiana, e questo poi in funzione anche di un progetto statico che per il momento è stato messo da parte, ma potrebbe poi essere ripreso in futuro, diventa fondamentale. Sì, anche se l'investimento, ammesso che il Comune di Milano lasci quell'area Inter Milan, che eventualmente verrà fatta sull'area intorno a San Siro, è comunque un investimento importante, si parla di 40-50 milioni di euro, e soprattutto sarebbe un progetto interessante anche dal punto di vista commerciale, quindi davvero potrebbe convincere l'Inter e il Milan a rimanere a San Siro. Proviamo a fare qualche numero. Tu li avevi dati nelle scorse settimane, i numeri della quotazione del 30% dell'Inter con la proiezione fino alla maggioranza. Questa è un'operazione da quanto? Guarda, il pacchetto di minoranza barra maggioranza, usiamo questa espressione non tecnica, che acquisirebbe Tohir, potrebbe valere, stando a quelle cifre, intorno ai 100 milioni. È chiaro però che quando tu non acquisisci il controllo di una società, quel valore viene meno. Il vero problema però, parlando appunto di cifre, è stabilire in un percorso che poi sarà definito di acquisizione progressiva di quote, no? Che nel giro di 2 o 3 anni dovrebbe poi portare al controllo completo dell'Inter da parte di Tohir. Si sono evidenziate molte difficoltà, che tra l'altro erano oggettive, cioè stabilire oggi per domani quanto vale una società, quanto vale l'Inter, senza sapere quelle che saranno le prestazioni sportive e dunque i ritorni, no? Pensiamo alla Champions, è molto complicato. E quindi chi in questo momento sta assistendo le due parti nella trattativa, sta portando avanti invece un progetto, una logica diversa, cioè non legarsi subito le mani, stabilire magari un range di valori massimo e minimo per quelle che sono le azioni dell'Inter, per poi sedersi tra uno o due anni al tavolo e magari in quel momento fissare un prezzo che sia più rispondente e alla quella che sarà la situazione dell'Inter e al valore della rosa, perché gli investimenti in giovani che in questo momento sta facendo l'Inter o in giocatori legati al progetto, e penso a Nainggolan principalmente, significa anche investire per il futuro, significa spendere ora poco per magari trovarsi una rosa più importante con un maggior valore tra qualche anno. Ecco Marco, per chiudere, Erik Toier si è detto e letto tanto di questo personaggio, 43 anni, imprenditore, figlio di un padre che ha messo in piedi un impero sterminato, si dice che abbia un patrimonio di miliardi di euro, un fatturato che si avvicina ai 12 miliardi, che cosa devono aspettarsi i tifosi dell'Inter? Uno sceicco o un magnate che investe nel calcio cifre pesantissime, mi viene in mente il Paris Saint-Germain o il Monaco, o una gestione più attenta, più vicina direi all'esperienza degli americani in Italia, se non fosse che dal punto di vista dei numeri è un'esperienza fin qui disastrosa? Sai, io penso che Toir non investa, non abbia investito finora nel calcio e nello sport in particolare, per ulteriori ritorni, per esempio politici, e quindi è quello che fanno generalmente gli sceicchi, spendendo cifre enormi. Toir finora, con risultati per la verità altalenanti se guardiamo l'esperienza negli Stati Uniti, ha tentato però e sta tentando di costruire un impero a cavallo tra i media, il calcio e il business, con una certa oculatezza. Ecco perché per esempio non immagino spese folli, ma immagino piuttosto che si continui all'Inter nella politica di equilibrio dei bilanci, di taglio dei costi che ha portato nel 2016 a una riduzione tra ammortamenti e ingaggi di almeno 70-80 milioni. Quindi la crescita populata, progressiva, con acquisti importanti ma non folli, che riporti l'Inter innanzitutto in Champions e quindi a primeggiare, essere almeno tra le prime tre in Italia, e poi a riportarla sul palcoscenico europeo, che è quello che questa società ha dimostrato di valere, insomma, almeno negli ultimi anni. Quindi non vedremo un'Inter iscritta alla corsa per Cristiano Ronaldo, ma questa immagino è una immagino di no, immagino di no. Grazie Marco Bellinazzo. Grazie a te Giovanni, a presto. Tutti convocati. E sulla Supercoppa cosa hanno deciso? Cosa succederà? È un problema che non mi riguarda, perché io ho già detto che la Supercoppa non la giocherò mai più in vita mia. Sì, davvero surreale la vicenda della Supercoppa. 18 agosto a Roma, tribunali permettendo perché pende un ricorso della Juventus per la spartizione del bottino. Garantito per la Lazio, il resto mancia per la Juventus, vicenda davvero in linea con quello che è la politica del nostro calcio. I cinesi prima o poi si stancheranno di aspettarci, di aspettare che le nostre squadre vadano a Pechino come da contratto, tre volte in quattro stagioni, ma già si parla di una proroga fino al 2016. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Massimiliano dalla provincia di Forlì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Buon pomeriggio. Io desideravo elogiare ancora una volta un giocatore che secondo me è molto utile per la nazionale, che è Giaccarini, e quindi volevo sentire anche da parte sua un punto di vista in merito a questo ruolo che comunque lo stesso Prandelli gli ha trovato all'interno della nazionale, tenendo presente che è un giocatore che non sta giocando nella Juventus in modo continuativo e pertanto è ancora di più da elogiare, insomma, nel gioco che sta facendo. Questa era la mia domanda. Sì, Giaccherini è utile come un coltellino svizzero. Il fatto che abbia giocato meno con la Juventus, secondo me, uno dei motivi per cui in queste due settimane in Brasile ha mostrato una condizione nettamente superiore rispetto a quella di tanti altri compagni, anche della Juventus. È evidente però che è in grado di occupare almeno tre posizioni tra centrocampo, anche in una posizione leggermente avanzata, e quindi penso che per Prandelli continuerà a essere un uomo importante. Un anno fa in tanti criticarono il CT per averlo portato agli europei. Credo che dopo questa Confederations, al di là delle esagerazioni del soprannome, che a me sinceramente, e ve lo confesso, ha anche un po' stancato, chiamiamolo Giaccherini, non Giaccherino, però al di là di queste esagerazioni giornalistiche, è un giocatore che si è guadagnato la stima e la presenza nei 23. Andrea da Bologna, buon pomeriggio. Prego. Volevo prima complimentarmi con l'Ital Juve, perché ieri sera è stata una partita stupenda. Sì, chiamiamola però soltanto Italia, no. Dai. Altrimenti quando si vince col Messico è Ital Balo, esatto, e poi invece Balotelli sparisce, e se perde cosa succede? Perché era Ital Juve anche l'anno scorso agli europei, fino a un minuto dopo la finale contro la Spagna, poi è tornata a essere Italia e basta. Chiamiamola Italia, dai Andrea. Esatto, sono pienamente soddisfatto della prestazione che hanno fatto, tutti ci davano già per morti, invece abbiamo fatto vedere che quando ci sono le partite importanti è difficilissimo batterci, perché sia l'Inghilterra agli ultimi europei, la Germania e adesso anche la Spagna. E poi un ultimo appunto, cioè non abbiamo giocato così male questa Confederation Cup, prima c'erano i due suoi giornalisti, direttori, sì, che a parte questa partita sei meno, cioè noi col Messico la partita col Giappone è stata sinceramente una partita di grandissima sofferenza, e col Brasile abbiamo giocato un primo tempo sottotono, poi meglio nella ripresa. Il mio voto per tutta la spedizione non è sei meno ma sei più, però non andiamo tanto lontani, diciamo la verità. Noi torniamo a casa con un minimo di tranquillità e di soddisfazione, perché ieri sera abbiamo vissuto questi 120 minuti appassionanti e che ci hanno fatto ritrovare la nazionale che avevamo lasciato agli europei, altrimenti il bilancio sarebbe stato negativo. Raffaele da Verona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. E poi ovviamente volevo un attimo parlare di Buffon. Sì. Cioè, secondo me porta forse ancora si può tenerlo, però quando si tratta di rigori è negato. È il suo punto debole, lo è sempre stato. Si vede che si muove prima, darà qualche indicazione al tiratore, perché è impossibile che non ne pari uno. Quindi non so, secondo me sarebbe giusto sostituire anche prima dei rigori o con un De Santis, con un Abbiati. Ti serve un portiere para rigori da portare il prossimo anno, mi serve il Buffon. Buffon se la deve mettere via, credo. Sì, Raffaele, il suo discorso può anche avere una logica, se non fosse che significa dover rinunciare a un cambio nel corso dei 120 minuti. Ed è del tutto evidente che quando una partita va ai tempi supplementari, come è stato ieri Italia-Spagna, poi gli allenatori, i commissari tecnici hanno bisogno di energie, di forze fresche, hanno bisogno di utilizzare tutto il meglio che hanno in panchina, perché sono partite che si giocano in 14 e io non credo che sia nemmeno pensabile risparmiare una sostituzione per farla al 119esimo, togliere Buffon e mettere un portiere che a quel punto entrerebbe a freddo. Non mi sembra la soluzione. Buffon è questo, lo conosciamo da una vita, lo conosciamo nei suoi pregi, nei suoi difetti. A me spaventa più il calo di rendimento che Buffon sta avendo in questi mesi. Anche ieri sera non è stato impeccabile. Il palo di Xavi in realtà nasce da una mezza disattenzione di Buffon, e in questa Confederations già non era stato impeccabile anche contro il Brasile. Bruno dalla provincia di Ferrara, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Riguardo Buffon volevo... Prego? Sì, prego. Riguardo Buffon volevo dire che secondo me è già passatino, perché ormai Buffon è anche nelle uscite non è molto accettabile. Vabbè, ma io non volevo parlare di questo. Dica. Io volevo parlare di El Shaarawy. Io non capisco perché El Shaarawy sia stato così... dimenticato in questi europei. Sarebbe stato l'uomo ideale ieri sera per infilare la difesa spagnola, ma non se ne è vista traccia. Sì, non se ne è vista traccia, ma non solo contro la Spagna. Shaarawy ha giocato qualche minuto contro il Brasile. Credo che in questa spedizione in Brasile sia oramai la quarta scelta di Prandelli. Penso che molto dipenda dalle condizioni fisiche, lo abbiamo detto prima, poi è evidente che una volta rientrato in Italia Shaarawy dovrà fare chiarezza prima di tutto col Milan sul suo futuro, perché le cronache raccontano anche di un giocatore profondamente disturbato dalle voci che arrivavano dall'Italia sul suo inserimento in trattative e comunque su una incedibilità che non esiste, l'ha ribadito anche ieri Adriano Galliani, perché la stella del Milan è Balotelli, che è incedibilissimo, parole di Galliani, poi c'è Pazzini che resterà e poi ci sono tutti gli altri, e se arriva una buona offerta e Shaarawy è destinato a partire, evidentemente il Milan valuta che il giocatore abbia dato il massimo nella prima parte di questa stagione e quindi sia un investimento che può essere monetizzato. Grazie comunque, siamo in chiusura. Una chiusura che vogliamo dedicare a Stefano Borgonovo, non ne abbiamo parlato, ma il pensiero di questo ragazzo che ha combattuto e perso una battaglia più grande di lui è stato con noi in tutta questa giornata. Ieri la FIFA ha negato l'autorizzazione al minuto di raccoglimento, noi un minuto lo vogliamo dedicare lo stesso a Stefano Borgonovo, ringraziando Franco Piantanida, autore di questa puntata, e Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento è a domani per il Magazine. Un saluto anche da Giovanni Capuano. È posizione regolare, il pallonetto e c'è il gol! E c'è il gol di Borgonovo! Esplode l'entusiasmo del Milan! Finalmente! Ha saputo approfittare in modo straordinario! E poi la misura del pallonetto! E stavolta Aumann non l'ha potuto!